Ricordate, dovete individuare i numeri divisibili per 2. Tra 1 e 10, quali si dividono esattamente per 2 senza lasciare resto? Pensate al nome che si dà comunemente a questo tipo di numeri.